Questo interessa molto. Dopo tutto quello che abbiamo detto, noi da questi incontri dobbiamo uscire con una convinzione che abbiamo dentro di noi un'esperienza di Dio. Non dobbiamo andare tanto lontani in cerca di Dio. I nostri progetti, le nostre idee, i nostri propositi, la nostra buona volontà sono tutti testimoni che dentro di noi c'è qualcosa di divino, di eterno, di grande, di sublime. Siamo carta d'identità di Dio, un documento di riconoscimento di Dio, ciascuno di noi. E non pensate che siano stranezze o stravaganze, quelle che a volte ci vengono per la testa. Attenzione, avete mai sentito dei vecchi dire: se tornassi indietro, farei, organizzerei? Scusi, quanti anni ha? Ho passato i 70, i 75. Tornassi indietro, giustissimo, questa è una prova filosofica dell'esistenza dentro di noi di un germe di immortalità. Vogliamo dire che noi saremmo disposti a ricominciare da capo, anche 100 volte. Ma come noi potremmo fare questo ragionamento se qui dentro di noi non ci fosse un germe di immortalità? Questo ragionamento non potremmo mai farlo. E invece io l'ho sentito fare tante volte. Se tornassi indietro, se dovessi rifare la strada, ah sì, perché saresti anche disposto a tornare indietro? Sì, bisogna dire, perché questo è il sì di Dio, il sì di Dio. Ci ha fatti Dio, siamo invenzione di Dio. E la nostra anima viene da Dio, creata direttamente da Lui. È giusta la domanda del catechismo, chi ti ha creato? Che tu sii papà, mamma o figlio, la risposta è uguale per tutti. Mi ha creato Dio. Dio. Personalmente, Dio. Perciò io dentro di me devo accorgermi che sono di Dio. Questo modo di dire è un documento valido, filosofico, teologico, che noi siamo immortali, immortali. Un'altra esperienza di questo genere. Trovo un individuo che dice: ho pensato di andare all'università. Scusi, se guardo bene, aveva un ciuffetto di capelli sulla testa, e resto tutto piazza pulita. Dico: ma all'università? Sì, perché ho sempre sospirato di laurearmi anche in questa materia. Ed era già professore, già laureato. A oltre 70 anni voleva frequentare l'università per prendersi un'altra laurea. Ma questi sono colpi di testa? No, colpi di testa. Questo dice che dentro di noi c'è dell'eterno, dell'immenso, del divino. Se a 70 anni suonati uno dice: vado a iscrivermi per una nuova laurea, studiare ancora 2 anni, 4 anni, 6 anni. Sì, sono segni questi, indizi indiscutibili, che noi dentro abbiamo un qualche cosa che supera lo spazio del corpo, supera lo spazio del tempo e ci dice che siamo destinati a Dio. Siamo roba sua, possesso suo, possesso di un Signore, di un Creatore che è eterno. Dio è sempre stato, è e sarà. E noi siamo coinvolti in questo suo essere misterioso, eterno. Anche quest'altra è una bella considerazione. E qual è la gioia più bella per un anziano? Condurre a spasso l'ultimo nipotino. La mamma dei fratelli Peratoner, autori di questi quadri, sono 12 figli, di cui uno prete, e 11 lavorano tutti ancora nel loro laboratorio a Ortisei? Lei, la mamma, mi ha detto venerdì scorso: padre, sa, sono nonna 28 volte. Poche settimane fa mi è nato il 28esimo nipotino. Ah, con due occhioni, questa vecchietta, alta una spanna e mezza, che non pensa a morire. Quando vuol divertirsi apre un album e sopra ci sono le fotografie di questi 27 più 1, 28 nipotini. E se può prenderseli in braccio e portarsi a passeggio uno, l'altro, e cammina stentatamente perché ha 85 anni compiuti. Però in quei momenti lì lei sembra una ragazza piena di esuberanza. Perché l'anziano va volentieri con il bambino? Non rispondete che è sentimentalismo questo. Questo è un annuncio, è un'annunciazione. Dio che dice all'anziano: non guardar troppo la tua carta d'identità, non fermarti troppo allo specchio perché ti mancano i capelli, perché sei dimagrito. Ma che? Su, vai a spasso con quel bambino, perché tu sei ancora bambino. E ti puoi trovare bene con i bambini, anche se tra te e i bambini c'è la distanza di 70-80 anni. Questa distanza è annullata per la presenza in te e nel bimbo di un'anima immortale.